24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Ben ritrovata Deborah Rosciani. Buona giornata. Qua. Riparti una settimana. Sì, questo l'avevo detto il lunedì scorso, ma mi era venuto fuori un tono pessimo e non ho voluto replicare oggi. Va bene. E allora, parte una settimana nuova, nella quale cominciamo a parlare di quello che potremo fare tra poco nei tabaccai in maniera più veloce. Sì, quello che in realtà possiamo già fare, sì, perché molti servizi sono già partiti, però diciamo che questa rete di servizi, grazie a questo progetto che si chiama Reti Amiche della Pubblica Amministrazione, appunto, è una serie di servizi che potrà essere ampliato, implementato, che brutto termine, però in realtà le cose stanno così. Allora, io ringrazio e saluto di essere con noi a Davide Giacalone, consulente del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Amministrazione e innovazione, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuto a Soldi e Dintorni, tra l'altro anche collega giornalista. Allora, vediamo insomma la sua firma su molti quotidiani, su alcuni quotidiani spesso e volentieri. Allora, da qualche anno avevamo notato come fosse possibile sbrigare certe pratiche in luoghi inconsueti, come per esempio pagare il bollo dell'auto, le bollette, le multe, i contributi per la colf, quelli per il riscatto degli anni di studio dal tabaccaio. Questa è una pratica possibile, appunto, dicevo, da qualche tempo, di cui molti cittadini hanno approfittato. Un'altra novità degli ultimi anni è stata quella, per esempio, del rilascio del passaporto da parte delle poste. Entro poco tempo sarà possibile, appunto, per esempio, pagare il ticket sanitario e i contributi INPS attraverso il conto corrente bancario. Tutto questo è Reti Amiche, come dicevamo. L'ultima novità è che avete siglato come pubblica amministrazione una convenzione anche con l'ABI, con l'Associazione delle Banche Italiane. Giacalone, in che cosa consiste questa novità? Allora, Reti Amiche è essenzialmente un'idea di portare la concorrenza nella pubblica amministrazione. I servizi della pubblica amministrazione sono offerti in monopolio perché sono servizi pubblici, servizi dello Stato nelle sue varie articolazioni. Invece l'idea è quella di dire, ma insomma, tutto sommato ci sono cose che possono fare tanti altri gruppi, le banche, appunto, con cui si è fatto un accordo generale, le farmacie, i carabinieri con i quali c'è già un accordo esistente, i coltivatori diretti, i notai e così via. Cosa possono fare? Un po' ciascuno quel che, diciamo, per vocazione ha, e un po' anche allargandosi. Ad oggi Reti Amiche, voi avete correttamente ricordato che da molto tempo si può presso i tabaccai, per esempio, pagare il bollo dell'auto anziché il canone RAI e così via. Da qualche settimana è possibile pagare anche il riscatto laurea, cioè i contributi all'INPS, e i contributi per i collaboratori domestici o anche i lavoratori stagionali, diciamo così. Ad oggi il fornitore dei servizi è solo l'INPS nel campo Reti Amiche, bisognerà e si allargheranno piano piano. È un progetto modulare, ma diciamo, l'idea essenziale è quella che la qualità del servizio deve essere messa in competizione con quello della pubblica amministrazione. Anche perché, le dico io, Giacalone, molto spesso abbiamo assistito negli ultimi anni a grandi evoluzioni, per esempio nelle attività della posta, faccio un esempio banale, no? Che oltre all'esercizio delle normali funzioni si è, come dire, cimentata anche nella erogazione di prodotti di risparmio. Adesso invece, al contrario, vediamo che in banca sarà possibile, per esempio, addirittura non so se questo sarà possibile in futuro, non so, ottenere un certificato di residenza attraverso delle convenzioni con i comuni. Non le sembra che andiamo incontro ad una questione che sarebbe, che è sicuramente molto interessante per snellire la pubblica amministrazione, l'erogazione di determinati servizi per i cittadini, però non c'è un po' troppa commissione? Non sarebbe meglio, che ne so, magari far funzionare meglio i tradizionali servizi, piuttosto che, questa ovviamente è una provocazione, mi dica lei poi come la vede. No, far funzionare meglio i servizi in generale va sempre bene, diciamo, una ricetta sempre utile, però no, non c'è troppa commissione, anzi ce n'è troppo poca, bisogna che ce ne sia molto di più, bisogna che io cittadino, quando vado a uno sportello, che sia esso bancario, postale o dal tabaccaio, appunto, come punto di pagamento, possa fare il maggior numero di cose possibili, insomma, nelle grandi città, ma anche nei centri con meno traffico umano e di macchine. Spesso avere a contatto con la pubblica amministrazione è un incubo dal punto di vista proprio dello spostamento fisico. Andare all'anagrafe in città come Roma o come Milano è un bel impegno, richiede un'intera giornata, spesso paghi pure la multa perché non ci sono i parcheggi. Allora, in queste condizioni, più si avvicina il certificato a me cittadino, meglio è. Siccome lo Stato non può che possa aprire uffici anagrafici in ogni quartiere o in ogni blocco di edifici, e vogliono utilizzare altre reti. Queste reti lavorano in concorrenza, cioè non è che diventano pubbliche amministrazioni, i tabaccai non è che diventano dipendenti pubblici, devono poter offrire questi servizi in concorrenza. Chi lo fa meglio, chi lo fa in meno tempo, con più comodità e con meno spesa, vince. Ecco, tra l'altro, proprio a proposito dei tabaccai, avevo letto anche di un'indagine di un'associazione dei consumatori, sì, secondo la quale ci sarebbe una certa impreparazione delle tabaccherie sul servizio Reti Amiche. Su un campione di 50 esercizi della capitale, il monitoraggio è stato fatto a Roma, solo 4 hanno affermato di disporre del servizio e non sono state in grado di dare informazioni circa questo funzionamento. Voi poi come monitorate effettivamente l'effettivo funzionamento dei servizi, Giacomo? Allora, intanto quel tipo di ricerca che è correttissima, va bene, anzi le facciano più spesso e segnalino le disfunzioni, però è un po' viziata dalla confusione tra quello che è possibile e quello che è futuribile. Cioè, per esempio, i tabaccai sono partiti con il riscatto laurea, che riguarda oggettivamente pochi italiani, i contributi per il riscatto laurea, e tutti parlavano già del contributo golf, e allora naturalmente il tabaccaio interrogato non sapeva di cosa si stesse parlando. In ogni caso, i tabaccai che possono fare questo, per rimanere a questa categoria, che possono fare questo servizio, sono gli stessi che hanno i collegamenti per i giochi online, per intenderci, cioè le ricariche telefoniche, o appunto il bollo, le multe, il canone Rai e così via. È ragionevole che per far partire un servizio in una rete che non è una rete dello Stato, una rete di concessionari dello Stato, ma ciascun tabaccaio è un piccolo imprenditore privato, ci vuole del tempo. È bene metterli in concorrenza sia con lo Stato, la pubblica amministrazione, sia con altre reti, perché siccome poi alla fine il cittadino ne riceve un servizio e ne guadagna in libertà, ma non è che lo fanno gratis, gli altri ci guadagnano, prendono dei soldi, quindi è bene, ecco, che questi soldi dei cittadini siano dati in concorrenza. A proposito di questo, Giacalone, quanto, sì, ci costeranno i servizi erogati attraverso questi canali? Io leggevo per esempio di questa iniziativa, che forse è una delle più interessanti, sarà possibile, è possibile credo già da questo mese, dallo scorso mese di gennaio, prenotare e ritirare certificati e modulistiche attraverso lo sportello fuori orario del comune. Si tratta di un'iniziativa partita in 125 tabaccherie del Lazio, quindi credo che questa sia ancora una cosa sperimentale, però per esempio, ecco, la tabaccheria quanto ci fa spendere per l'erogazione di questo servizio? Nulla, da questo punto di vista nulla di nuovo sotto il sole, nel senso che sono le tariffe decretate a suo tempo per le tariffe del servizio, naturalmente relative alle altre questioni di pagamento come il bollo auto o il canone Rai, non cambia assolutamente nulla, 1,10 euro, 1,20 euro, ma è un poco di più di quello che si paga dall'ufficio postale, e naturalmente ciascuno può scegliere. Ecco, invece la convenzione con la banca, con le banche quando sarà operativa? Con le banche, con una delle più grosse banche italiane, dovrebbe essere operativa già dal mese prossimo. Naturalmente lì la cosa diventa assai più interessante, nel senso che si possono fare i pagamenti dal luogo dove gli italiani, le persone normalmente, hanno i soldi depositati, che comporta naturalmente un'ulteriore semplificazione. Ciò che è importante è riuscire a convincere e a portare dentro Reti Amiche come fornitori di servizi, non come, quindi come diciamo, punti di incontro col cittadino, ma come fornitori di servizi, quanto più banche date possibili. Quindi oggi è l'INPS che entrano tutti gli altri. Certo, Giacalone, noi stiamo quasi chiudendo. Ci interessa anche molto sapere invece che servizio vi aspettate dalle farmacie, con le quali appunto pure firmerete una convenzione a breve, dopo averlo fatto, come dicevamo, con le banche, con i notai e con le poste. Allora, la polivalenza e la commistione è un fatto positivo. Naturalmente poi ciascuno ha la sua specializzazione, quindi c'è tutto il capitolo delle ricette e dei certificati elettronici, come anche delle prenotazioni, delle visite specialistiche, di cui le farmacie hanno una specializzazione particolare. Io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, Giacalone, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Alessandro. Eccoci qui, alle 12. Non alle 12 resta che ritorniamo sul bonus sociale, visto che c'è una prima scadenza a fine mese, sulla social card. Benissimo. Le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Uno sguardo alle ultime notizie: un morto e 21 feriti, di cui diversi in gravi condizioni. E questo è il bilancio dell'attentato avvenuto ieri nel cuore del Cairo, la capitale dell'Egitto. La vittima è una cittadina francese, non ci sono italiani coinvolti. Dario Franceschini giura come neo segretario del PD, attacca Berlusconi, non rispetta la Costituzione, vuole concentrare il potere nelle sue mani, accusa il reale, Franceschini mente, la replica del Premier. E quella appena passata è stata la notte degli Oscar, trionfa The Millionaire con ben 8 statuette, le più pesanti su 10 nomination, ma ne parleremo più approfonditamente alle 8:45. Infine il calcio, dopo le vittorie negli anticipi di Inter e Juventus, ieri vince anche il Milan 1-0 con gol di Seedorf, nonostante i fischi di San Siro. Vince anche la Fiorentina 2-1 nel finale sul Chievo con Rissa in campo per un gol segnato con un giocatore ospite a terra, e contestazione anche dei tifosi a Napoli dopo la sconfitta casalinga 1-0 con il Genoa. Ed è tutto per le notizie, è il momento di sentire il commento del direttore del Sole 24 Ore dedicato alla settimana economica e finanziaria che si apre, una settimana difficile. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Sarà una settimana di passione, di verità sui mercati. Ormai il maggior pericolo sembra arrivare dall'est, con la possibilità che possa fallire addirittura uno Stato sovrano. Tra gli ex paesi comunisti la crisi economica è profonda. Si calcola che i debitori dell'est debbano restituire, solo quest'anno, 400 miliardi di dollari ai loro creditori stranieri. Molti hanno acquistato case indebitandosi in euro o franchi svizzeri e le monete nazionali sono in caduta libera. I mutui subprime, come si vede, non erano solo americani. Sarà probabilmente necessario un aiuto del Fondo Monetario. Questa crisi ha forti analogie con ciò che avvenne alle economie asiatiche emergenti nel 1996 e della stessa Unione Europea. Quell'Unione oggi presieduta da Praga, il presidente ceco Václav Klaus è il più critico anti-europeista, eppure non era giovanissimo 20 anni fa quando c'era ancora il muro di Berlino e il patto di Varsavia, che più che capitali inviava i carri armati. Buona giornata. Grazie, buona giornata a Ferruccio De Bortoli, che troveremo domattina alla stessa ora. 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Io saluto Beppino Englaro, buongiorno. Beppino, buongiorno. Beppino Englaro, lo ritroviamo dopo un po' di tempo. Beppino Englaro, come sapete, insomma, il padre di Luano, una vicenda che tutta Italia e non solo l'Italia conosce, si è battuto per tanti giorni per far affermare la volontà di sua figlia di sospendere le terapie che la tenevano in vita. Una battaglia durata quanti giorni, Englaro? 6.233 giorni. Senta, lei... dal 18 gennaio 1992 al 9 febbraio del 2009. Lei oggi ha deciso di continuare la sua battaglia contro la legge sul testamento biologico che è in discussione in Parlamento. Lei l'ha definita una barbarie, perché? Perché impone condizioni di vita estranee al modo di concepire la mia esistenza. Io sto parlando solo per Beppino Englaro a questo punto. In che cosa impone una vita che a lei non va bene? Imponendomi l'alimentazione e l'idratazione forzata nella condizione personale non più capace di intendere e di volere. Dal momento che io, capace di intendere e di volere, posso rifiutare tutto. Una volta che non mi trovo più capace di intendere e di volere, devo subire questa imposizione coatta. Praticamente, lei lo sa, la libertà di cura e di terapia si risale sempre al principio del consenso informato, di dire sì o no a qualsiasi tipo di terapia e di cura. C'è una grossa discussione però se l'alimentazione e l'idratazione forzata siano una terapia dunque rifiutabile oppure un sostegno vitale mai rifiutabile. E qui bisogna tenersi a quello che dicono le società scientifiche. In questo caso la Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale si è espressa, che è la SIMPE. E si è espressa? Nel fatto che questa è una terapia, è un presidio terapeutico, questo è. Senta, forse lei non ha letto oggi i giornali, il professor no. Angelo Panebianco, prima pagina del Corriere della Sera, parla proprio della legge sul fine vita e dice sostanzialmente che è una battaglia tra neo-guelfi e neo-ghibellini. Da una parte i fautori della sacralità della vita, che secondo Panebianco sbagliano di grosso a voler imporre per legge a tutto i loro valori, a tutti. Ma sbagliano anche, scrive Panebianco, i fautori della libertà di scelta. Costoro la fanno troppo semplice, banalizzano in maniera inaccettabile il problema. Insomma, scrive Panebianco, l'aspetto più impressionante è l'esibizione da una parte e dall'altra di certezze e di muscoli. Lei certezze, o meglio dubbi, non ne ha mai avuti? No, per quanto riguarda la mia vita non ho dubbi di questo, perché per me non esiste modo migliore per tutelare la vita se non affidare le decisioni a riguardo a chi la vive. Ma guardi, la sentenza della Cassazione del 16 ottobre del 2007 dice chiaro e tondo, proprio testuale: occorre premettere che il consenso informato costituisce di norma legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato l'intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente. La pratica del consenso libero informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo, è un mezzo per il proseguimento dei suoi migliori interessi. Vede, perché il principio del consenso informato esprime una scelta di valore nel modo di concepire il rapporto tra medico e paziente, nel senso che detto rapporto appare fondato prima sul diritti del paziente e sulla sua libertà di autodeterminazione terapeutica, che sui doveri del medico, che ha un sicuro fondamento nella norma della Costituzione dell'articolo 2. Che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità, e dell'articolo 13 che proclama l'inviolabilità della libertà personale. Senta, nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo. Questi sono principi costituzionali, che poi conclude che deve escludersi che il diritto all'autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene vita. O ci atteniamo alla Costituzione o no, o andiamo verso la costituzionalità e verso le leggi dello Stato come Stato di diritto, oppure come Stato etico che vengono imposte le cose. Senta, lei autoritario coattiva. Lei poco fa ha detto: io parlo per me a questo punto, parlo per Beppino Englaro. L'hanno accusata di fare soprattutto politica, innanzitutto. Politica, lei ha già detto non mi candiderò, lo conferma, insomma, non... Guardi, per me le libertà fondamentali sono un valore assoluto. La mia libertà è un valore assoluto e non c'è perché guardi una cosa, nel precedente, nella situazione di mia figlia, per vedere il primo sussulto della libertà nella direzione che noi era già naturale nel gennaio del 92, abbiamo atteso 5.750 giorni, 15 anni e 9 mesi, sempre per questa sentenza del 16/10/2007 che ho letto adesso. Insomma, i principi di diritto in uno Stato di diritto sono veramente... guai non rispettarlo. Ma voglio dire, lei ha confermato non si candiderà, non scenderà in politica. Ma nella maniera più assoluta. Io difendo solo le libertà fondamentali di Beppino Englaro. Però hanno detto anche, la accusano molto, anche oggi sui giornali, di dire: ma come? Aveva detto starò in silenzio, vorrei sparire, vorrei che non mi sentiate più. E invece è qua ancora a parlare. Io la ringrazio, ma anche in altre trasmissioni. Perché allora lo fa? No, perché, guardi, io già i primi giorni, già nel gennaio del 92, dissi: cosa devo fare io per non cadere in questi meccanismi? Dal momento che anche Beppino Englaro, come tutti gli altri cittadini, si può trovare nella situazione di Eluana e non vengono riconosciute le libertà fondamentali, è chiaro che io devo parlare. È logico, è una conseguenza logica. Io non mi sarei mai aspettato che al posto di, diciamo, di evolvere nella direzione delle libertà fondamentali si andasse esattamente e diametralmente opposto a questo. È chiaro che qualsiasi cittadino dovrebbe reagire di fronte a queste imposizioni autoritarie coattive da stato di diritto, da stato etico. Senta, lei nei giorni ovviamente in cui sua figlia era Udine aveva ben altro a cui pensare, ha però più visto le immagini delle, per esempio, le urla al Senato, l'accusa anche qualcuno che diceva non è stata uccisa, il senatore Quagliariello è stata ammazzata, la quasi rissa, insomma. No, guardi una cosa, loro sono liberi di fare e di esprimere. No, ma lei le ha viste? Cioè, le ha viste? No, non le ho viste, no. Non ho interesse a vederle. Le avrà sentito no, parlare? No, non ha sentito parlare, ma guardi, per me sono fuori dalla realtà. Dobbiamo attenerci alla concretezza dei fatti. La concretezza dei fatti: viviamo in uno stato di diritto o in uno stato etico? Tutto lì. Questa è la concretezza dei fatti e deve essere chiaro una volta per tutte. Lei sa che c'è anche chi ha detto che lei si era inventato un po' tutto, cioè sulla ricostruzione della volontà fatta ex post necessariamente di sua figlia. Ma guardi, tutti sono liberi di dire quello che vogliono, ma devono dimostrare questo. Lei più volte ha ribadito un concetto che vorrei ribadire anche adesso, che la vicenda di sua figlia non c'entra nulla con l'eutanasia, ma io sono d'accordo con lei peraltro, sulla questione della volontà di voler sospendere o meglio accettare o rifiutare una terapia. Le chiedo però, che ne pensa lei dell'eutanasia in linea di principio? Guardi, una cosa, quello è un altro problema. Io mi sono sempre battuto e mi batto tuttora per la libertà di cura, anche fin dalla cura più banale alla cura più estrema. Tutto lì. Io parlo sempre della libertà di cura. L'eutanasia è un altro problema. Se non siamo neanche preparati ancora ad affrontare il problema della libertà di cura, si immagini lei del problema dell'eutanasia. In ogni caso, questa legge secondo lei passerà così com'è? Guardi, I numeri parlamentari ci sono, come lei pensa. Sì, ma i cittadini, poi, guardi, anche se fossi il solo a pensarla in questa maniera, ho il diritto della libertà di cura di terapia fino alle più estreme conseguenze. Questo che io sostengo. Quindi ogni cittadino è libero di esprimersi, penso, in uno stato di diritto. Ah beh, questo sì, voglio dire. Però passerà. Primo questo. Dica. Se passerà questa legge, voglio dire, lei è pronto, siccome si parla anche di referendum, è pronto a continuare la battaglia, insomma, da questo punto di vista? Di battaglia. Io dico e dirò semplicemente quello che ho detto finora, che di parlare sempre e solamente della libertà di cura e di terapia, nient'altro. Quindi un messaggio, voglio dire, ai politici che stanno per discutere questi giorni la legge? Lei che messaggio darebbe? Messaggio, se si rendono conto, se hanno approfondito abbastanza questa cosa, sia dal punto di vista costituzionale, sia dal punto di vista della scientificità di quello che stanno mettendo a punto. Tutto lì, scientificità clinica, ben si intende, tutto lì. Altro non ho da dire. L'approfondimento dovuto prima di legiferare come stanno legiferando, tutto lì. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi, Beppino Englaro, il padre ovviamente di Eluana. Staremo a vedere, tra l'altro, dopo le 9, ricordo anche Giuliano Ferrara, in Parliamo con l'Elefante, parlerà proprio di questo, del testamento biologico, della legge, con i protagonisti, insomma anche il relatore Calabrò, il sottosegretario Roccella. Quindi grazie a Beppino Englaro. The Oscar goes to Slumdog Millionaire Christian Colson, producer. The Oscar goes to Kate Winslet. And the Oscar goes to Sean Penn. Eccoci qui allora, un breve riassunto della notte degli Oscar nelle frasi più significative, insomma le vittorie delle statuette, anche se c'è stato un film mattatore. Marta Cagnola, eccoci qua. Marta, buongiorno. Eccoci Alessandro, sì, un film mattatore perché aveva ricevuto molte nomination, 10, e ha fatto davvero il pieno perché ha avuto 8 statuette. Parliamo di The Slumdog Millionaire, o semplicemente The Millionaire, che era un poi il favorito, insieme al curioso caso di Benjamin Button, che aveva ricevuto ben 13 nomination, ma già i bookmaker verso la fine, così verso gli ultimi giorni, avevano già capito che mentre Slumdog Millionaire ce l'avrebbe fatta. Per quanto riguarda invece il curioso caso di Benjamin Button, è stato un curioso caso di flop. Allora, Benjamin Button ha raggranellato solo 3 statuette: miglior scenografia, trucco ed effetti speciali. Non pesano tantissimo come statuette. Invece The Slumdog Millionaire ha preso miglior film, miglior regia, fotografia, montaggio, colonna sonora, canzone originale, sceneggiatura non originale e missaggio del suono. Un trionfo, tutto, insomma. Tutto quello che poteva prendere, un sicuramente trionfo, le più pesanti. Un trionfo. Abbiamo sentito anche la proclamazione del miglior attore e della miglior attrice. Ce l'ha fatta Sean Penn. A me un po' spiace perché io speravo in Mickey Rourke, in questa sua resurrezione, sia sullo schermo come The Wrestler, sia nella vita. E Kate Winslet invece sono contenta per lei perché era la sesta volta che ci provava a prendere in mano la statuetta. Ha detto che quando lei aveva 8 anni già provava la scena con la bottiglietta dello shampoo e ha detto stavolta non è una bottiglietta, non è una dello bottiglietta shampoo, di shampoo, è quella vera. Tra l'altro io voglio andare a Los Angeles, dove troviamo Luciano Palermi. Luciano, buongiorno, anzi buonasera, insomma per te è quasi mezzanotte. Buongiorno. Luciano Palermi è la voce italiana di E!, il canale Entertainment che è sulla piattaforma Sky al 126 e che è lì, insomma, Los Angeles ha seguito il red carpet, no? Il tappeto rosso, Luciano. Come è andata? Nessuno ha inciampato, intanto, immagino. No, fortunatamente no. Sono rimasti tutti quanti più o meno in piedi, diciamo. E si temeva più che altro che ci fosse un po' un tono un po' dimesso per l'aria di crisi economica che c'è. Però, francamente, non ho avuto l'impressione che questa 81esima cerimonia degli Academy Awards fosse sottotono rispetto agli anni passati. Di certo quello che ho notato è che l'Academy, più che sulle sontuose coreografie, ha fatto molto affidamento sulle doti artistiche di Hugh Jackman in chiave di presentatore. Che dire, questo attore australiano è un brillante intrattenitore, sa cantare, sa ballare, meno male che è brutto, così almeno si consola, ecco. Sì, è vero, verissimo, lo dico alle ascoltatrici che non avessero visto la cerimonia, era veramente bruttissimo. Sì, no, non ci crediamo, era veramente straordinario. Tra l'altro ha ballato e ha cantato molto bene. Hai detto non c'era aria di crisi, eppure nei giorni precedenti le notizie erano davvero tremende. Si parlava di grande risparmio, di spazi pubblicitari venduti così, svenduti, con un ricavo molto inferiore per l'ABC. Invece dicevi, almeno dal red carpet, lo sfarzo c'era lo stesso. Lo sfarzo c'era, però non c'era comunque il desiderio di esibire troppo, di ostentare troppo. Questo si può capire anche, per esempio, non so, un caso per tutti: Angelina Jolie, che ha fatto impazzire i gioiellieri di mezza New York perché cercava questa collana da 20 milioni di dollari, che inizialmente aveva dichiarato avesse interesse ad indossare, però ha rinunciato a farlo. Secondo me in questi tempi è risultata una mossa azzeccata, anche perché Angelina, anche senza collana, comunque ha stracciato comunque l'ex di Brad Pitt, Jennifer Aniston, come presenza. Un elemento invece di quest'anno è stata un po' la segretezza, nel senso che, a parte la conferma ufficiale di Hugh Jackman come presentatore, però inizialmente non si era saputo molto di come si sarebbe svolta la cerimonia, e probabilmente questo alone di mistero è servito anche a creare interesse e quindi gli sperati indici d'ascolto per un programma che certe volte comincia un po' a mostrare la corda in qualche modo, comincia a dare un po' il segno degli anni a volte. C'è da dire, chiedo sia a Marta e poi a Luciano, l'Italia quest'anno ha passato, insomma, è passato così. La notte degli Oscar ce la siamo guardata, dopo che Gomorra c'è stata la vicenda, credo che insomma... Beh sì, eravamo già un po' col cuore in pace, perché insomma Gomorra non aveva passato uno degli step che toccano ai film stranieri. Per la cronaca, ha vinto il film giapponese. Tra l'altro, una delusione però per gli italiani nell'ultima serata, in punto nella serata, nella cerimonia di premiazioni, è il fatto che chi non conoscesse la cerimonia degli Oscar potrebbe pensare che è un fatto un po' macabro. In realtà ogni anno c'è questo bellissimo video in cui si ricordano tutti gli scomparsi dell'industria cinematografica. Sono stati dimenticati gli italiani, li ricordiamo noi, che erano Ugo Pirro, Ennio De Concini e Dino Risi, e nessuno di loro è stato ricordato in questo video. L'immagine finale era ovviamente quella di Paul Newman. E Luciano, da lì, a parte te d'Italia, che c'era sul red carpet? Poco, immagino. Ma sì, non siamo stati molto rappresentati quest'anno, come diceva giustamente anche Marta. In effetti siamo stati un po' così snobbati, c'erano film più forti. D'altro canto poi Slumdog Millionaire ha fatto man bassa di statuette, non può essere considerato interamente un film straniero per certi versi, è una produzione mista, però tutto sommato sì, siamo finiti un po' sotto il radar in qualche modo. Un peccato che sia così, perché in effetti insomma nelle edizioni precedenti comunque la presenza dell'Italia c'era e si faceva sentire. Quest'anno eravamo un po' assenti, purtroppo, sì, non c'eravamo molto. Eravamo assenti. Sì, devo dire solo una cosa per quanto riguarda l'Italia. È curiosa, io non so se è davvero così, però pare che il palco fosse stato ispirato dalla piazza del Campidoglio a Roma. Io non l'ho visto esattamente identico alla piazza del Campidoglio, però pare tu, Luciano, sia stata... ne sai qualcosa su... No. Ci hanno dato forse un contentino. Sì, non lo so. David Rockwell, che poi era l'architetto autore del Terminal 5 dell'aeroporto Kennedy di New York, è stato lui a fare la scenografia, ha detto che si è ispirato. Non te ne sei accorta. No, io non me ne sono accorta, però probabilmente era così. L'ho letto, ho controllato, ma non mi sembrava proprio identico. Detto questo, c'è un altro... Sì, allora, il momento più commovente della cerimonia, diciamo che era l'Oscar, l'unico Oscar sicuro annunciato, quello postumo a Heath Ledger. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. Oscar on behalf of Heath Ledger. E chi è che ha ritirato, tra l'altro, la statuetta, ovviamente, non essendoci più? L'hanno ritirata la madre e il padre, bellissimi, e la sorella, che ha detto: noi sappiamo che hai fatto un lavoro bellissimo e lo ritiriamo soprattutto per tua figlia Matilda. Era talmente scontata la vittoria di Heath Ledger che è abbattuto nelle quotazioni dei bookmaker quella che era toccata a Helen Mirren per The Queen, che era scontatissima. Era bancato a 1,03, quindi non si poteva quasi neanche Luciano giocare. Luciano Palermi, abbiamo 10 secondi, è stato questo effettivamente il momento più toccante, insomma, della cerimonia? Direi decisamente di sì, era proprio palpabile la sensazione al Kodak Theater, che insomma la perdita di un grandissimo attore, di un grandissimo talento, che purtroppo avrebbe avuto modo di dimostrare ancora in futuro con le sue performance, delle esibizioni eccezionali, e purtroppo è andata così. Però sì, davvero la commozione era molto forte e molto sentita, nonostante Hollywood possa essere poco autentica in certi momenti, però in questo ho avuto proprio la sensazione di una grandissima perdita. In questo sì, in questo momento sì. Allora io ringrazio da Los Angeles Luciano Palermi, buonanotte ovviamente, visto che quasi mezzanotte, è stata una giornata molto intensa come quella che è ogni anno, la notte degli Oscar, la notte per noi, insomma, per loro è il giorno degli Oscar. Voglio ricordare Voce Italiana di E, il canale sulla piattaforma Sky, al 126 la trovate. Lo ringrazio molto, così come ringrazio Marta Cagnola. Dico buonanotte anche a te, Marta, perché sì, dopo la notte di Sanremo, la notte degli Oscar, sono due notti un po' così. E allora, tra poco Giuliano Ferrara, parliamo con l'elefante, come detto, torna sul tema testamento biologico, la legge in discussione, e noi ci ritroviamo, grazie a Alessandro Marco Tullio e Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia. Ci ritroviamo domattina, potete scriverci 24 mattino @radio24.it.